Bene, allora iniziamo in ritardo perché il temporale ci ha. Diremo solo il temporale, non faremo, racconteremo storie diaboliche. Io voglio, prima di passare la parola ai compagni che approfondiranno meglio il tema della serata, volevo ricordare due o tre punti. Uno, recentemente, qualche giorno fa, il cancelliere tedesco Merz, espressione di una coalizione di democristiani e socialdemocratici, ha detto che Israele sta facendo il lavoro sporco per l'Occidente. Questo è un altro di quei casi dove la verità di classe è detta dal nemico di classe. Si è dimenticato, diciamo così, di aggiungere che mentre Israele dà le carte, sostenuto dalla NATO e dall'Europa, costringe a un robo subalterno gli Stati Uniti e rivendica, sostenuto dall'Europa, il ruolo di gendarme nell'area medio orientale. Si realizza così un'altra guerra per procura dopo quella che perdura in Ucraina. Questo minimo stato dell'arte contribuisce all'allargamento del disordine mondiale. Non voglio farla lunga, però prima di passare la parola ai compagni che approfondiranno ulteriormente il tema, voglio però ricordare che la discussione non è indirizzata a mobilitazioni o al che fare di memoria antica, ma a cercare di fare riflessioni sulla situazione che stiamo vivendo. Ultimissima cosa, voglio ricordare ancora che tutti quelli che vorranno intervenire devono venire al tavolo perché sia i collegati online sia quelli in streaming così possano sentire le considerazioni che verranno fatte. Io ho finito e passo già subito la parola a Francesco che entra nel tema della serata. Allora, per cominciare a entrare nell'atmosfera, nonostante ci si ritrovi in pochi e ci sia, secondo me, una grossa sottovalutazione della problematica della guerra fatta da Israele all'Iran, e per dare il senso di come ci siamo mossi noi, vi voglio leggere un breve documento. Qualcuno avrà già visto, chi riceve le nostre mail, blog, ha ricevuto una serie di materiali di iraniani sulla questione o sull'analisi dell'Iran. Vi leggo una presa di posizione sulla guerra fatta da una serie di sindacati. Per sindacati intendo, poi ve li spiego. Sindacati che sono indipendenti e illegali, che esistono comunque, che organizzano manifestazioni e agitazioni. È del 17 giugno, no alla guerra, no alle politiche guerrafondaie, cessate il fuoco immediato. Date le attuali condizioni instabili e pericolose in Iran e in tutta la regione, le organizzazioni firmatarie di questo appello ritengono necessario adottare una posizione collettiva. I lavoratori iraniani, operai, insegnanti, infermieri, pensionati e altri lavoratori dipendenti non hanno mai tratto benefici dalla guerra, dalla militarizzazione, dai bombardamenti aerei o dalle politiche di dominio e sfruttamento e non ne beneficeranno mai. Gli attacchi militari di Israele, compresi i bombardamenti di centinaia di obiettivi in varie parti dell'Iran, da infrastrutture chiave e siti industriali a raffinerie e quartieri residenziali, fanno parte di un aggressivo piano di guerra. Il prezzo di tutto questo lo paga la gente comune, in particolare la classe operaia, con perdite di vite umane, dei propri mezzi di sussistenza e l'insicurezza quotidiana. Le affermazioni di Israele di non nutrire alcuna animosità nei confronti del popolo iraniano sono palesi falsità, propaganda politica. Appena ieri il ministro della difesa israeliano ha minacciato di bruciare Teheran. Le ripetute minacce di Trump e di altri funzionari statunitensi, insieme al pieno appoggio delle potenze occidentali a tali azioni, non hanno fatto altro che aumentare ulteriormente le tensioni e la distruzione della regione. I governi di Israele e degli Stati Uniti sono i principali responsabili del genocidio in corso a Gaza e di innumerevoli altre atrocità in tutta la regione e nel mondo. Organismi internazionali come le Nazioni Unite, che si atteggiano a missionari di pace pur rimanendo in silenzio di fronte a questi crimini, sono complici del sistema globale di dominio. L'ordine mondiale capitalista, con la sua logica basata sul profitto e sui centri di potere imperialisti, è alla radice della guerra, della catastrofe umanitaria e del collasso ecologico. La classe operaia iraniana non solo non trae alcun vantaggio dalla guerra, ma ne subisce direttamente le conseguenze. Le sanzioni continue, gli ingenti stanziamenti per le spese militari e la soppressione delle libertà non faranno altro che aggravare la povertà, intensificare la repressione e causare maggiore fame, morte e sfollamento per milioni di persone. Noi, come organizzazioni indipendenti di lavoratori e di base in Iran, non ci illudiamo certo che gli Stati Uniti o Israele intendano portarci libertà, uguaglianza o giustizia. Così come non ci illudiamo sulla natura repressiva, interventista, guerrafondaia e antioperaia della Repubblica Islamica. Per decenni i lavoratori iraniani e gli oppressi hanno pagato un prezzo pesante: carcere, torture, esecuzioni, licenziamenti, minacce e aggressioni, per aver rivendicato i propri diritti fondamentali e una vita dignitosa. Ci vengono ancora negati i diritti fondamentali di organizzarci, di riunirci e di parlare liberamente. Gli operai e le masse lavoratrici dell'Iran sono giustamente infuriati con e estranei rispetto a un regime che ha accumulato immense ricchezze in 4 decenni, imponendo uno stato di perenne insicurezza e espropriazione, e dalla classe capitalista che questo regime protegge. Tutti i responsabili della repressione e dell'assassinio di lavoratori, donne, giovani e oppressi in Iran devono essere processati dal popolo stesso. La nostra lotta è una lotta sociale di classe, radicata nella nostra forza, e prosegue la traiettoria delle recenti rivolte popolari da Pane, Lavoro, Libertà del 2017 e Donna, Vita, Libertà che tutti conosciamo. È una lotta che si allinea con la classe operaia internazionale e con tutte le forze impegnate per la giustizia, la libertà e l'uguaglianza. La continuazione dell'attuale percorso di guerra non porterà altro che ulteriore distruzione, danni irreversibili all'ambiente e nuove tragedie umane. La classe operaia iraniana, la maggioranza emarginata del paese, così come i popoli oppressi di altri paesi della regione, sono le principali vittime di questa realtà. Invitiamo tutti i sindacati, le organizzazioni per i diritti umani, i movimenti contro la guerra, gli attivisti ambientalisti e le forze che cercano la pace in tutto il mondo a levare una voce unita per chiedere la fine immediata della guerra, dei bombardamenti, del massacro di persone innocenti e della devastazione ambientale. Chiediamo loro di essere solidali con le lotte del popolo iraniano e degli altri popoli della regione per porre fine al genocidio, al militarismo e alla repressione autoritaria. I popoli del Medio Oriente hanno urgente bisogno di porre fine alle catastrofiche lotte di potere tra forze regionali e globali e di instaurare una pace duratura fondata sull'organizzazione dal basso, sulla partecipazione di massa e sull'autodeterminazione democratica. No alla guerra, no alle politiche guerrafondaie, il cessate il fuoco immediato è la nostra richiesta urgente. È firmato dal sindacato della compagnia degli autobus di Teheran e dintorni, che negli ultimi anni ha fatto una serie di agitazioni, dal sindacato dei lavoratori della compagnia di zucca di Avtapeh, che anche questo in moltissimi anni ha fatto moltissime lotte, dai lavoratori pensionati del Khuzestan, dal gruppo di unità dei pensionati, dal comitato di coordinamento per aiutare a formare l'organizzazione dei lavoratori, dal gruppo di solidarietà dei pensionati. Ve l'ho voluto leggere perché è chiaro, secondo me, il messaggio che viene, è un messaggio di classe: la guerra è reazionaria, i lavoratori non hanno da parteggiare, non certamente con Israele, ma tantomeno con la Repubblica Islamica, non lo devono fare neanche turandosi il naso o dicendo che è il male minore, ma devono rompere quell'ordine del discorso della guerra che è stato instaurato e che viene instaurato. Voglio dire poche cose, spero di non rompervi troppo le scatole e di riuscire a sintetizzare. Sono tre punti fondamentali che secondo me vanno affrontati. Uno, il carattere azionario di questa guerra. Due, la subordinazione, l'appoggio che viene dato dall'Europa, dai paesi occidentali, Italia compresa, centrodestra e centrosinistra. E la fondamentalità dell'indicazione di nessun sostegno al regime islamico dell'Iran. Chi ha voglia poi di andarsi a vedere i materiali che abbiamo pubblicato troverà anche delle cose storiche. In questa cosa è sostenuta fin dal 2001, da prima, dai compagni iraniani, dalla necessità di non cadere nel tranello, di non capire che la riorganizzazione della destra iraniana e medio orientale è avvenuta sotto il segno del fondamentalismo islamico e dell'Islam politico, che è una politica reazionaria. Poi vedremo anche nell'Iran pochi passaggi di quello che ha fatto, ma che non va in nessun modo appoggiata perché è il nemico di classe. Questo documento che vi ho letto è fatto da gente che, se viene presa, viene incarcerata e non si sa si esce dalla famosa Evin e può anche essere condannata a morte. Allora, sul carattere reazionario dell'aggressione israeliana io penso che tra di noi non ci sia molto da discutere e da vedere. Ci sono alcune piccole considerazioni da fare, secondo me. È stato tutto messo in campo da anni con questa trattativa sul nucleare, che è una farsa. Va detto apertamente, è una farsa. Il presidente della AEA, Grossi, ha dovuto riconoscere che non c'è nessuna evidenza concreta di costruzione della bomba a nucleare da parte degli iraniani. Apro una parentesi. Come per noi, anche per gli iraniani, avere il nucleare civile e il nucleare militare non va bene, è una cosa che va rifiutata. Non è che il regime islamico deve avere il diritto di farsi il nucleare, perché è una cosa contro i lavoratori e contro la gente del posto. Ma come viene impostata, è una cosa reazionaria, fasulla, e dimostra che il mondo occidentale, l'imperialismo occidentale, quando va a trattare, prende per il culo. Mentre tratta, ti ammazza chi viene a trattare, mentre tratta va a bombardare, fa queste cose. E noi qui dobbiamo schierarci risolutamente contro queste cose, non cadere negli inganni che ci vengono detti anche ideologicamente sul fatto che si fanno la bomba, che vogliono distruggere Israele, che la donna è oppressa, cose vere, ma non puoi accettare la logica che la democrazia e la libertà fasulla viene portata con i bombardamenti aerei, con la guerra, come hanno fatto in Afghanistan, come si fa qui, come stanno facendo con il massacro di Gaza. E teniamo presente che proprio per come sta evolvendo e che è probabile che continui questa guerra, in forse l'ingresso diretto degli americani, questo può essere un fattore che aumenta il rischio di guerra globale, che lo fa deflagrare anche nell'area. Il problema non sono gli altri paesi, non sono gli altri, non sono arabi gli iraniani. I paesi arabi stanno a guardare, gli fa comodo che il fondamentalismo islamico sciita sia fatto fuori dall'area. È evidente che Arabia Saudita e compagni sono lì belli, silenziosi, anche l'Egitto gli va benissimo questa cosa. Non c'è nessuno che li appoggia. Ma la Russia, la Cina, non è che saranno a guardare. Le interrelazioni di tutto questo meccanismo, quando tu apri una guerra, sai come inizia, ma non come finisce. E questo è quello che sta avvenendo. Israele ha fatto una serie di mosse. Ha prima attaccato l'Iran in Libano e ha distrutto la capacità militare di Hezbollah. Poi è saltata la Siria e adesso è passata all'attacco diretto contro l'Iran. Questo attacco reazionario noi qui dobbiamo bloccarlo. Consentitemi una parentesi, l'ipocrisia occidentale è mostruosa, perché dice l'Iran non può avere la bomba nucleare. Allora, secondo i dati del SIPRI, l'agenzia di Stoccolma sull'armamento, Israele, che non aderisce all'Agenzia Internazionale sul nucleare, che non firma nessun trattato di proliferazione nucleare, ha 90 testate nucleari. 140. 90 secondo gli ultimi dati a gennaio 2025, secondo loro, altri ne danno di più. Poi, oltre a questo, dispone di 125 aerei da combattimento potenzialmente nucleari. Oggi sarebbero 50 in grado già adesso di partire con testate nucleari. Sta sviluppando missili della classe Jericho 3 a propulsione nucleare a lungo raggio che arrivano chissà dove. Ha 5 sottomarini della classe Dolphin, motore diesel elettrico, ma hanno ciascuno fino a 20 missili che possono essere anche nucleari. In più sta inoltre aggiornando il suo impianto di produzione di plutonio presso il Negev, nel Nuclear Research Center vicino a Dimona. Quindi se uno accetta questo, si fa prendere per il culo come propaganda, ma soprattutto ci dà l'idea della partita che si sta giocando e di come questi delinquenti stanno portandoci verso una guerra globale. Primo passo è dire no a questa guerra, in solidarietà alle masse iraniane e le masse dell'area, ma anche per noi stessi. È questo che a livello più generale bisognerebbe far capire. Dico poco sulla complicità occidentale, che mi sembra evidente, cola ogni giorno dai mass media, ma senti da tutta una serie di affermazioni che possiamo riassumere nell'ipocrisia di questa frase che viene detta di più oggi dal centrodestra, meno dal centrosinistra, ma finora è stata detta. Israele ha il diritto di difendersi, trasformiamolo nella sua concretezza, ha il diritto ad attaccare in spregio al diritto internazionale, a bombardare in spregio al diritto internazionale, non deve rispondere di quello che fa. Gli organismi internazionali, che sono sempre stati una farsa, come il Tribunale dell'Aia, usati per determinate guerre, diventano nudi di fronte a questo. E l'Occidente è schierato con questo. E nei nostri limiti di capacità, possibilità, rivendicazioni, il compito che in Occidente abbiamo è quello di separare la nostra classe operaia, il nostro proletariato, da queste avventure di guerra, per solidarietà e perché così blocchiamo una corsa alla guerra, perché riarmo va avanti, sta procedendo verso la guerra globale, che non sappiamo quando inizierà, ma ci si stanno preparando. E vengo al dunque, un po' del problema che a noi interessava, il carattere reazionario del regime iraniano. Su questo ci sono molte discussioni, per noi è senza ombra di dubbio. Metto prima le antitesi. È vero che il regime iraniano dal 79 si è scontrato con gli Stati Uniti e con l'imperialismo occidentale. Questa è una cosa innegabile, non era un teatrino. Il fondamentalismo islamico, islam politico, come lo vogliamo chiamare, anche sulla base del fallimento storico di quello che è stata l'esperienza del panarabismo nell'area, che si è venduto all'imperialismo, è diventato compartecipe della rendita petrolifera, ha raccolto questa bandiera, tra virgolette ha raccolto, e ha condotto una battaglia andando a rinegoziare, nei limiti del possibile, quanto ci è riuscito, la rendita petrolifera, ha creato tutta una serie di strutture per espandersi, per confrontarsi. Però questo qui non è un antiimperialismo comunista, proletario, rivoluzionario. È la reazione articolata in questi paesi. Nel 79, chi ha l'età se lo ricorderà, Lotta Continua scrisse «La rivoluzione senza Marx» e un po' vagheggiava dietro Khomeini queste cose. Io vorrei ricordare poco perché non ho il tempo, ma la storia della rivoluzione iraniana non è proprio quella che ci viene rappresentata. Nella rivoluzione iraniana venne tentato di costituire i consigli operai, si chiamavano Shora. C'è un libro molto bello del Partito Comunista d'Iran in inglese che racconta tutte le agitazioni che ci furono a Teheran e nel paese, di come la classe operaia cercò di buttare giù il regime dello Shah, di come vi partecipò e poi come nel percorso della lotta tra le classi, anche in fondo con appoggio internazionale, Khomeini ebbe il sostegno, vinse e iniziò prima col primo governo provvisorio assieme ai fedain del popolo iraniano, poi senza di loro che li mise fuori legge, con una repressione pazzesca. Allora, le cifre date dai compagni iraniani di allora di morti per repressione sono 60.000. 60.000 uccisi nelle carceri dal regime iraniano, perché comunisti di varia osservanza, perché proletari che si sono mossi per raggiungere obiettivi. Chi mi viene a parlare che siamo di fronte a un regime antiimperialista, per me è dall'altra parte, né più né meno, lo dico con chiarezza e risolutezza come gli iraniani, che su questo io ho sempre apprezzato, anzi, tra le cose che abbiamo reso disponibili ci sono gli scritti di questo compagno che è morto, Ekmat, scritti dopo l'11 settembre, sono non tutte condivisibili, ma chiarissimi su questo. Chi appoggia in senso antiimperialista il fondamentalismo islamico non ha capito che cosa sta avvenendo. Io mi ricordo in gioventù anche confronti con questi a Parigi, con gli algerini, che ti accusavano, tu sei con quelli che non fanno un cazzo, siamo noi l'antiimperialismo. Poi si è visto trattamento verso il proletariato, verso le altre forze e così via. Ricordiamoci che lì libertà politiche, sindacali, libertà individuali, il caro della donna è mostruoso. Poi, non solo, ricordiamoci anche per dare un altro quadro, in Iran i Pasdaran e le guardie rivoluzionarie hanno costruito una serie di propaggini in Iraq. Queste sono state alla base della repressione del movimento giovanile e di classe in Iraq contro il fondamentalismo, contro la repressione. Sono stati loro che hanno fatto la repressione con i morti. Gli Hezbollah libanesi, quando c'è stato il movimento in Libano, erano dall'altra parte, erano contro. Non parliamo della Siria, di quello che ha fatto e di quello che è avvenuto. In tutti questi anni i fondamentalisti islamici, gli iraniani per primi, sono stati radicalmente contro la lotta di massa del proletariato arabo medio orientale. E non parliamo poi delle loro posizioni, di quello che hanno fatto anche con Rojava e con le minoranze curde. Gli iraniani nel 79 fecero la guerra nel Kurdistan iracheno. C'era un'organizzazione che si chiamava Komala, che era legata al Partito Comunista d'Iran, e allora erano comunisti e ponevano il problema dell'autodeterminazione in un quadro di prospettiva comunista, e ci fu la guerra. Tra l'altro questi dovettero combattere sia contro il regime iracheno sia contro i curdi democratici similari a quelli che hanno fatto il Kurdistan indipendente in Iraq. Non la faccio lunga. In Iran c'è una situazione, che dopo vi dirò qualcosa di più sulla situazione, ma che anche effervesce socialmente. L'ultimo sciopero, anzi catena di scioperi, è del 18 maggio scorso, è lo sciopero dei camionisti. Lo sciopero dei camionisti è partito a Bandar Abbas e si è diffuso in 100 città irachene. Iraniane. Scusate, signore, sono contro le nazioni. diciamo in 100 città iraniane, con tre richieste fondamentali. Non volevano il nuovo sistema di prezzi del gasolio fatto su tre livelli, che ha portato i costi insostenibili per i camionisti. Volevano il ripristino delle quote di carburante sovvenzionato ridotte da 3.000 a 500 litri e un aumento delle tariffe per i trasporti, che sono rimaste ferme nonostante l'inflazione. Questo è proprio solo l'ultimo esempio, ma per dirvi, non so, sono con i tempi, l'ultima cosa che serve un po' a chiarire. In Iran c'è una situazione che è pesantissima. L'Iran, dicevo prima, è andato sia a negoziarsi, rinegoziare la rendita petrolifera, però è stato anche strozzato da tutte le misure, le sanzioni e così via, che sono state pagate dalla popolazione. I salari iraniani sono fermi quasi dagli anni Ottanta, di fatto, con un'inflazione che viaggia. Possiamo dire che negli ultimi due decenni l'economia iraniana è in declino costante. Il prodotto interno lordo è stimato in 434 miliardi di dollari, ma il reddito pro capite è il 117esimo del mondo e sono 90 milioni di persone. L'inflazione sta andando sul 40% in Iran in questi giorni, con un'impennata dei prezzi che riguarda i generi alimentari e i beni di prima necessità. Il 33% degli iraniani vive al di sotto della soglia di povertà ufficiale. Il tasso di disoccupazione giovanile sfiora il 20% e la metà degli uomini tra i 25 e i 40 anni è disoccupata e non può cercare attivamente un lavoro. Per dire, milioni di laureati sono esclusi dalla forza lavoro perché non c'è lavoro. Nell'ultimo anno, un paese come l'Iran, che è ricco di riserve e combustibili fossili, ha affrontato una grossissima crisi energetica. È mancata l'elettricità per il 50% della capacità potenziale di produzione, che era stato prodotto il 50% con blackout di vario genere. C'è l'esaurimento delle risorse idriche, il livello delle dighe attualmente, che riforniscono terra, nel 7% della capacità potenziale per via dell'esaurimento delle falde acquifere e per la situazione dell'ambiente. L'economia iraniana, che pure è un paese con moltissime risorse naturali, è in qualche modo in situazione difficilissima. Questo è il risultato dei fallimenti successivi dei regimi che si sono susseguiti a partire dal colpo dello Stato organizzato dalla CIA nel 1953, quando c'era il primo ministro Mossadegh, e con l'installamento della dinastia Pahlavi. Parentesi, il mondo occidentale oggi sostiene la possibilità, più o meno direttamente, che il figlio di Pahlavi venga usato, e lui si è detto ben disponibile, assieme a un altro signore che vive a Los Angeles, di cui non ricordo il nome, ma era stato l'ultimo comandante della SAVAK, la polizia politica iraniana, corresponsabile, che vive a Los Angeles, e vorrebbero subentrare loro al posto del regime dell'Ayatollah in caso di caduta. Comunque, dopo la caduta dello Shah e dopo la reazione, si è installata un'autocrazia clericale sostenuta da un'elite militare che possiede e controlla ampie sezioni dell'economia. L'economia italiana si è espansa da un livello molto basso negli anni 60, quando poi saliva il prezzo del petrolio, ma è sprofondata con lo Shah. La crescita c'è stata un po' fino dal 90 al 2000, quando i prezzi del petrolio sono aumentati, ma dal 2010, col calo dei prezzi del petrolio e l'aumento delle sanzioni, c'è stagnazione totale. I proventi del petrolio rappresentano il 18% del PIL, il settore degli idrocarburi fornisce il 60% delle entrate del governo e l'80% del valore annuo dell'esportazione dei guadagni in valuta estera. Quindi tutto dipende dal petrolio. Una variazione di un dollaro del prezzo del greggio sul mercato internazionale cambia le entrate petrolifere dell'Iran di $1 miliardo al giorno. Nonostante la sanzione e la mancanza di investimenti, l'Iran riesce a esportare 1,5 milioni di barili di grezzo al giorno e 1 milione al giorno di altri prodotti petroliferi. Ma queste entrate vanno tutte, più o meno, nelle richieste economiche e sociali dei mullah e dei militari. Il bilancio complessivo delle grandi fondazioni religiose, che sono chiamate Bonyad, è pari al 30% della spesa governativa totale. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche controlla circa un terzo dell'economia italiana attraverso filiali e trust. Possiede oltre 100 società con fatturato annuo di $12 miliardi. Si aggiudica la maggior parte dei grandi progetti infrastrutturali. Nel 2024 le guardie hanno ricevuto €12 miliardi, pari al 51% di tutti i proventi del petrolio e del gas. L'ex presidente iraniano Ahmadinejad afferma che il 60% della ricchezza nazionale è controllato da sole 300 persone, la maggior parte delle quali trasferisce la propria ricchezza all'estero per acquistare beni immobili o depositare la ricchezza in conti segreti. Secondo il World Inequality Database, il primo 1% degli iraniani per ricchezza possiede il 30% di tutta la ricchezza nazionale e il primo 10% ne possiede quasi due terzi, mentre il 50% inferiore possiede il 3,5% della ricchezza totale. Le privatizzazioni e la disuguaglianza di ricchezza hanno prodotto un'elite al potere divisa tra i fondamentalisti religiosi, sostenuti dai militari, Pasdaran, le guardie, e una frazione imprenditoriale che cerca un accordo con l'Occidente. Questi ultimi riformisti, tra virgolette, sono favorevoli al mercato e vogliono ottenere la revoca delle sanzioni, a prescindere dalle concessioni all'Occidente. Se i mullah cadono, si uniranno rapidamente al campo imperialista e cercheranno la pace con Israele alle condizioni di quest'ultimo, come hanno fatto gli sceicati arabi. Nessuna delle due ali d'élite è interessata, però, a migliorare le condizioni della classe operaia iraniana. Il salario medio di un lavoratore è di circa $150-200 al mese e molti lasciano le piccole città dove regna la povertà per cercare lavoro nelle grandi città. La realtà è che il reddito medio non si è praticamente mai mosso dagli anni Ottanta. Dal 1980 a oggi è sostanzialmente fermo, nonostante l'inflazione aumenti al 40% ormai. Prima della guerra le agitazioni sindacali erano aumentate perché i lavoratori chiedevano salari più alti per stare al passo con l'inflazione. L'Alto Consiglio del Lavoro, che è un organismo islamico, non è quello dei sindacati indipendenti, ha recentemente proposto un salario di riferimento di 23,4 milioni di torman al mese, torman nella moneta. Ma i lavoratori sostengono che il costo reale della vita è di almeno 29 milioni di torman. Il salario minimo proposto dal governo è pari a 14 milioni di torman. Ha suscitato indignazione perché è al di sotto della soglia di povertà. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale, una petizione chiederebbe l'aumento salariale del 70% e avrebbe raccolto 25.000 firme. Zadek, capo dei consigli islamici del lavoro del Sud Khorasan, sempre un organismo di regime, ha avvertito lo scorso febbraio con una stima del costo della vita di 23 milioni di torman, i lavoratori saranno costretti a vivere in baraccopoli e a rimanere senza casa. Il prossimo anno sarà l'insegna dell'inflazione estrema e delle difficoltà se il governo non interverrà. A questo si aggiunge la crisi degli alloggi. Sul salario di un iraniano il 45% del reddito familiare va in spese per l'affitto. L'inflazione alimentare è quella più alta, supera il 35% per i generi principali e ci sono ormai file dappertutto. La situazione è stata acuita con la guerra. Nel primo semestre di quest'anno l'economia iraniana ha ristagnato con un settore energetico in difficoltà, un deprezzamento della moneta nazionale sul piano internazionale e un tasso di inflazione che è superiore al 40%. La situazione generale in cui si vive è questa e adesso sono arrivate le bombe. Per questo lì e qua, secondo me, noi dobbiamo dire no alla guerra, fine alla guerra subito, disfattismo rispetto ai fronti di guerra, nessun appoggio al regime dei mullah, anzi questo deve cadere sotto la lotta operaia, se possibile, proletaria. E qui noi non dobbiamo cadere nell'inganno che se anche si mette contro gli Stati Uniti, come ha fatto, non è una forza della rivoluzione, del cambiamento sociale, è una forza della reazione. Noi dobbiamo stare fuori e contro, disfattisti, contro la tendenza alla guerra, in sostegno alle masse di queste aree. E qui lascio la parola a Isaac. Allora, Francesco ha fatto bene a iniziare leggendo il documento degli organismi sindacali iraniani, che, ripeto, è molto importante perché ha una chiara base di classe. Ora, la situazione attuale del Medio Oriente e specificamente della guerra di spartizione, di ripartizione della regione da parte di Israele e anche dell'Iran, è non solo guerra tra stati, ma guerra tra classi. Infatti, ciò che caratterizza la situazione medio orientale rispetto a quella che era 80 anni fa, come ce la presentano ancora certi gruppi di estrema sinistra. Io ho letto il PCDL che si rifà al 1947. E come era 40 anni fa, quando c'è stata la cosiddetta rivoluzione islamica, è profondamente mutata. La classe più numerosa del Medio Oriente, in praticamente tutti i paesi del Medio Oriente, è il proletariato. Questa è la base sociale che non si può più nascondere né non voler vedere. Sono più di 100 milioni di proletari che nell'Iran, che ha oggi più di 80 milioni di abitanti, assommano a circa 27 milioni di salariati, salariati in condizioni, come ha detto Francesco. Non si parla qui di classe operaia o di proletariato o di lavoratori con alti salari, si parla di lavoratori miseri, ma proletari costretti a vendere la forza lavoro e a essere sfruttati. E questo vale non solo per l'Iran, ma anche per la Turchia, per l'Egitto, che è un vulcano sociale, e anche per Israele e per la stessa Palestina. Quindi partiamo da questa base fondamentale. La seconda questione è che quando gli stati reazionari del Medio Oriente, Israele, l'Iran, l'Egitto, la Giordania, la Turchia, fanno la loro guerra, la fanno non solo come guerra statale, ma come guerra di classe. Già la rivoluzione iraniana di 40 anni fa, come ha detto Francesco, fu preceduta, fu lanciata dalla lotta politica contro lo Shah da parte del proletariato e della gioventù. Ci furono degli scioperi poderosi e per 2 anni anche dei movimenti politici importantissimi. È stata questa grande lotta sociale e politica del proletariato iraniano castrata dalla controrivoluzione khomeinista ed è stata poi piallata non solo dalle decine di migliaia di compagni ammazzati nelle carceri prima della Savak, perché i torturatori della Savak diventarono i torturatori col turbante, ma è stata poi piallata dall'enorme sacrificio in guerra, la guerra Iraq-Iran, la guerra in cui gli iracheni pensavano, d'accordo con gli americani, di poter rovesciare il regime khomeinista e di poter dominare quel grande paese, e in cui invece il potere khomeinista utilizzò il fronte per sacrificare più di 1 milione di giovani mandati a combattere a mani nude, mentre i Pasdaran erano alle loro spalle e attaccavano gli iracheni dopo che i reparti dei giovani senza alcuna arma erano stati eliminati. Quindi c'è nella storia dell'Iran, e c'è anche qui un compagno iraniano, ce lo potrà dire, forse meglio, molto meglio di noi, una costante guerra di classe condotta dal potere, ma con delle reazioni eccezionali da parte dei lavoratori, dei giovani e delle donne. Non dimentichiamo poi che l'Iran oggi ha 86 milioni di abitanti, 85, non lo so, me lo puoi dire meglio tu, ma l'Iran, in Iran c'è una gioventù che qui in Italia noi vecchietti abbiamo dimenticato. C'è una massa di giovani esplosiva, di giovani e di ragazze, e ce l'hanno dimostrato. Ce l'hanno dimostrato con un coraggio che non viene da questi anni, solo gli ultimi, viene da lontano, perché ci sono state le agitazioni del 2008, del 2009, quando divenne presidente l'assassino Ahmadinejad. Ci furono le agitazioni del 2016, le agitazioni poi enormi del 2017, 2018, 2019, la cui parola d'ordine era pace, pane, libertà e consigli dei lavoratori. Per i vecchi comunisti queste quattro parole aprono un orizzonte, perché sono quelli della rivoluzione russa, ma in Iran hanno un concreto significato. Pace significava, pane significava la fame, e Francesco ha dato dei dati incontrovertibili. Pace significava la guerra che già in quel momento era in corso, perché l'Iran aveva, grazie all'abilità politica della sua classe dominante e alla stronzaggine degli americani, creato la cosiddetta mezzaluna sciita, cioè aveva conquistato praticamente la grande influenza sull'Iraq dopo che gli americani erano stati costretti a ritirarsi dal 2011 in avanti, aveva conquistato una posizione preminente in Siria, storico alleato debole dell'Iran, aveva conquistato già da tempo una grande posizione in Libano con Hezbollah. Ma queste posizioni non erano state conquistate solo politicamente. Il regime iraniano aveva finanziato con decine di miliardi di dollari ogni anno i suoi alleati per avere un posto importante che aveva conquistato nel Medio Oriente e per resistere grazie a queste alleanze all'attacco israeliano-americano, come aveva resistito. Ricordiamoci che Hezbollah, armato dall'Iran e i Pasdaran dietro e accanto ad Hezbollah, avevano dato delle lezioni all'esercito israeliano nel 2006 e in seguito. Poi l'Iran ha anche finanziato Hamas. Quindi, da questo punto di vista, la guerra si preparava da anni, perché Israele non era disposta, ovviamente, ad accettare questo accerchiamento. Avete visto che Israele, dopo lo sterminio di Gaza, ha colto l'occasione dello sterminio, dell'annientamento, del genocidio, per attaccare nel mese di settembre del 2024 Hezbollah, di cui ha fatto fuori tutti i dirigenti, ma non uno, due, tre, non sui capi, ma tutti i comandanti, centinaia, migliaia di persone. E questo era stato preparato per decenni. La stessa cosa Israele ha fatto in Iran. Avete visto come in questi ultimi tempi i capi, non solo in questi ultimi tempi, nel luglio 2024 è stato ammazzato in Iran il capo di Hamas, Haniyeh. E per ammazzare Haniyeh, prendendolo a casa nel centro, nell'albergo dei Pasdaran di Teheran, bisogna avere non delle spie, bisogna avere degli alleati. E così ha fatto quando ha attaccato recentemente, ammazzando tutta la grande, i grandi ufficiali, ma anche gli scienziati nucleari. Quindi c'è una parte della borghesia islamica che lavora per Israele, perché ha i suoi scopi, ma lavorare per Israele significa lavorare per mantenere il potere all'interno del suo paese, per mantenere il potere di fronte a una classe operaia, a una gioventù, a delle ragazze che sono in continuo movimento, perché l'altra parola d'ordine era libertà. Libertà significa possibilità di organizzarsi, possibilità di costituire partiti, possibilità di lottare, non dico per il potere, ma contro il potere. Non c'è ancora una rivoluzione che si sia incarnata in un partito comunista d'avanguardia, ma ci sono molte, molte formazioni politiche comuniste, o locali o in esilio, ma che sono in collegamento. Quindi quello che avviene in Iran è una doppia controrivoluzione durante la guerra. Controrivoluzione condotta dal potere che si difende dall'attacco israeliano. Controrivoluzione condotta anche dagli alleati borghesi neoliberali, cosiddetti, di Israele. Ma ciò che succede in Iran ci deve anche far riflettere sul ruolo di Israele. Israele non è solo la potenza alleata degli Stati Uniti, sostenuta dagli Stati Uniti, braccio armato degli Stati Uniti, che fa gli interessi degli Stati Uniti e propri, e anche di altri paesi. Gli interessi in questo momento, per esempio, dell'Arabia Saudita, perché se si indebolisce l'Iran, l'Arabia Saudita ne gode. Se si indebolisce l'Iran, l'Arabia Saudita può prendere di nuovo il controllo del Qatar. E il controllo del Qatar significa avere il controllo del più grande giacimento di gas del mondo, che è in proprietà con l'Iran. Significa dire alla Turchia, che in Qatar è presente, guarda, per favore mettiti di lato che ci sono io. Bene, se parlo di Israele, parlo di una potenza non solo imperialista, regionale e di più, ma parlo di una potenza controrivoluzionaria aperta, perché quello, la guerra che sta facendo Israele, il modo in cui lo sta facendo, è una guerra di terrorizzazione delle masse. Attaccare in questo modo le città iraniane significa attaccare chi non può fuggire, cioè attaccare i poveri. Ma c'è di più. Israele non sta massacrando tutto il popolo palestinese, dobbiamo dirlo chiaramente. Ci sono 100.000 palestinesi che sono riusciti a fuggire da Gaza. Sono fuggiti pagando perché avevano i soldi, perché rappresentano una parte, certo, non è una borghesia come quella araba dell'Egitto o piuttosto dell'Arabia Saudita, ma avevano i soldi, avevano i possedimenti e li hanno venduti per salvare la pelle. Loro hanno potuto farlo. Ma coloro che Israele sta ammazzando adesso, ogni giorno, perché solo oggi pare ci siano stati 70 morti, ieri 82, gente che andava a cercare da mangiare e gente che va a cercare da mangiare in quel modo, e il proletariato palestinese o comunque coloro che non hanno mezzi di sussistenza, non da oggi ma da molto tempo, e che sono destinati come classe in sovrannumero a essere fatti fuori, perché Israele non ha più bisogno di loro come forza lavoro e li elimina fisicamente con l'accordo dell'Egitto che ha chiuso la frontiera e con l'accordo di tutte le borghesie del Medio Oriente, perché purtroppo la parte più povera del popolo palestinese è in sovrappiù. E il ruolo di Israele non è solo quello di far fuori i palestinesi in generale, ma di eliminare un proletariato in sovrannumero. Quindi questa guerra, dovunque accada in Medio Oriente, è una guerra contro i lavoratori. C'è di più ancora, che è questo. È venuto il momento anche per il proletariato israeliano, parlo di proletariato israeliano, di pagare un prezzo altissimo. Non solo coloro che vanno ad ammazzare con l'esercito i palestinesi, ma anche coloro che vivono nelle città e hanno subito delle distruzioni, perché bisogna dirlo, le distruzioni che l'Iran ha inflitto a Israele. L'Iran non è una potenza qualsiasi, è una media potenza bene armata. L'esercito italiano contro l'Iran le avrebbe prese di santa ragione, anche se qualche aereo e qualche missile l'Italia ce l'ha, ma non tanti. Avete visto quanti quartieri sono stati rasi al suolo? Cioè, sono stati rasi al suolo interi quartieri e c'è un segreto militare su quello che sta succedendo. Quindi il proletariato israeliano sta pagando per la guerra. Una parte del proletariato israeliano che ha assunto e ha avuto da sempre degli atteggiamenti razzisti, perché su questo si è visto garantire una certa possibilità di vita, virgolette, agiata relativamente a quelli che stanno sotto. Una parte del proletariato israeliano sta pagando anche la sua posizione, ma un'altra parte dovrà cominciare a ragionare, a vedere dove lo sta portando l'autocrazia sionista. E quando parlo di proletariato israeliano non parlo solo dei proletari di origine, virgolette, ebraica, parlo anche dei proletari arabi che sono in Israele e parlo anche dei proletari immigrati. Ricordatevi che gli immigrati in Israele, che sono 300.000 asiatici e neri, 300.000, hanno visto l'inferno non solo sotto i padroni israeliani, ma sono stati rapiti da Hamas, che li ha trattati come ostaggi, mentre loro erano ostaggi dal capitalismo israeliano. E quindi l'attacco fatto a questi operai asiatici che sono stati tenuti in ostaggio è stato un attacco antioperaio. Quindi, finisco, abbiamo una guerra di classe tra tutti i regimi oppressori contro i lavoratori del Medio Oriente. Abbiamo anche una tradizione di lotta, una coscienza, perché quel documento letto da Francesco è avanzato, il documento iraniano, che dimostra che una parte della classe operaia del Medio Oriente è avanzata e sa capire chi è il padrone e che non può schierarsi al suo fianco. Abbiamo anche la necessità che questi operai, questa gioventù in lotta, si batta politicamente uscendo dai propri confini. Contro la guerra imperialista non c'è altra via che quella della lotta di classe nel proprio paese e dell'unione internazionale dei proletari da un fronte all'altro. Sulla questione del disfattismo di una parte degli operai sotto le armi, voglio ricordare o quantomeno della gioventù sotto le armi, voglio ricordare, perché non la si ricorda troppo, e invece è molto importante, non solo il rifiuto di andare sotto le armi da parte dei riservisti israeliani, di alcune migliaia o forse di più, ma soprattutto il rifiuto di parecchie centinaia di giovani che non vogliono andare a combattere la guerra contro l'Iran. È un piccolo segno che qualcosa si sta muovendo, e anche in Iran la situazione politica non può che evolversi. Finisco ricordando che giovedì scorso c'è stato un presidio dei compagni di Gina in Largo Cairoli, Piazza Castello, con la parola d'ordine contro i due oppressori. Questo presidio ha visto la partecipazione di qualche decina di compagni iraniani di varia provenienza politica e italiani. Bisogna ovviamente che queste iniziative siano portate avanti in modo più sistematico e soprattutto che siano più numerose. Non è una critica a chi le ha organizzate, è una critica a chi non le ha appoggiate. Ecco quindi la situazione in cui ci troviamo e che dobbiamo considerare. Bene, come dicevo all'inizio, se qualcuno ha qualche considerazione, qualche domanda, qualche richiesta, viene qui, perché così sia i collegati online sia quelli che ci ascoltano tramite lo streaming possono sentire. Quindi il microfono è a vostra disposizione, io vi do anche la sedia, perché per amor di Dio non è che stiamo qui mica fare stare in piedi, quindi se qualcuno vuole venire il microfono è a disposizione. Ciao a tutti, vi ringrazio molto per le cose che avete detto, erano molto interessanti. Io sono iraniano del collettivo Together for Iran, che ha detto il nostro compagno, che abbiamo fatto una manifestazione recentemente. Erano molto interessanti le analisi che avete detto, anche con il comunicato dei sindacati, anche era molto interessante. Ci sono altri anche come associazione dei scrittori che hanno fatto anche loro, non so se avete letto, noi abbiamo letto col comunicato nella manifestazione, anche quello molto interessante, se vi interessa posso mandare anche a voi. Adesso avevo due domande, ci sono dei dubbi che avevo, perché volevo sapere: Israele ha sempre chiamato Iran asse del male, cioè non solo Israele, anche quasi si può dire tutto l'Occidente cioè l'ha considerato così, e con questo asse è riuscito a vendere un sacco di armi a tutti i paesi vicini, fare tante guerre, Iran-Iraq, armare Arabia Saudita, tutti i paesi vicini. Volevo sapere, prima di tutto, cioè, se l'obiettivo di Israele è eliminare Iran, il regime iraniano, e sostituirlo con il regime dello Shah, cosa pensate succederà a questo asse di male? Cioè, dove andrà da Iran e cosa sarà? E poi, seconda domanda, che Israele sta sempre dicendo vogliamo fare un nuovo ordine nel Medio Oriente. E come sarà il nuovo ordine senza mezzaluna sciita come al potere, ovviamente, cioè perché non si può distruggere tutti i sciiti. Loro cosa vogliono fare? Come vogliono armare altri sunniti contro sciiti? Come andrà questo? Come vedete, avete qualcosa su questo? Grazie. Sai, Se fossimo in grado di darti tutte queste informazioni, ci avrebbero assunti da qualche parte, perché... Allora, c'è un quadro che secondo me deve essere ben chiaro a tutti, cioè di come oggi si parla di guerra, però di oggi come oggi, di come la guerra sia profondamente modificata, profondamente un'altra cosa. Nel senso che per fare quello che vorrebbero fare gli israeliani o gli americani o coloro che si battono contro l'asse del male, dovresti appoggiare gli scarponi sul territorio iraniano. E mi sembra che per quanto riguarda questa condizione, in primis gli americani e poi tutti gli altri, sia ben lontana questa ipotesi, perché si tratta appunto di un paese di 90 milioni di abitanti. E poi, qualora si possa svolgere qualsiasi idea di questo genere, poi a mezzogiorno devi anche stabilire, quando la gente arriva là, che cosa c'è pronto da mangiare. Quindi, però la guerra nel frattempo è andata modificandosi, nel senso che, come tu puoi vedere, ottiene un obiettivo, che è quello di terrorizzare prima di tutto le popolazioni, perché comunque sia, anche facendo finta che la precisione degli israeliani colpiscono 5 obiettivi su 10, mentre i missili iraniani fanno 3 su 10, però dico quello più, per quanto ne sappiamo, perché come tu ben sai, poi la forza stabilisce anche la quantità dell'informazione durante il conflitto, e poi stabilisce che informazione dare, e poi stabilisce se questa è un'informazione vera o è prefabbricata o è completamente falsa, ma deve essere venduta come vera. E comunque sia, l'ospedale israeliano è stato colpito. Quindi io non credo che si possa eliminare gli sciiti dal Medio Oriente, ecco, questo al momento sono certo. No, io aggiungo solo una cosa. Su questo, Francesco ed io forse abbiamo idee diverse. Non è Israele che ha tirato, o tu l'hai detto forse, no, che Israele ha tirato gli Stati Uniti dalla giacchetta. C'è un piano che viene da lontano, degli Stati Uniti. Ricordatevi, il 2018 Trump denuncia il trattato raggiunto da Obama sul controllo dell'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran. Gennaio 2020, Trump sta per finire la sua presidenza, fulmina Soleimani, Qassem Soleimani, il generale di Pasdaran, che si trovava a Baghdad. Baghdad, Soleimani cosa stava facendo? Stava organizzando la repressione degli scioperi iracheni che in quel momento si stavano svolgendo. Ma viene fatto fuori, evidentemente con l'accordo di Israele. La ripartizione del Medio Oriente da parte degli Stati Uniti, che non hanno più la forza di tenere i loro uomini sul terreno, ma possono manovrare la guerra, comincia allora. Israele fa quello che deve fare per preparare la nuova guerra contro Hezbollah, contro la, come dire, contro l'Iran, e intanto la guerra civile siriana sembra terminare, ma il regime di Assad è completamente senza forze e cadrà, come abbiamo visto, è caduto. Quindi c'è una riorganizzazione di tutto il Medio Oriente che però non è solo una riorganizzazione regionale come era prima, perché fino al 2020 si tratta di guerre regionali. La guerra del Medio Oriente si unisce alla guerra ucraina, la guerra ucraina impedisce alla Russia di intervenire a sostegno di Assad, quindi ci sono dei patti più o meno segreti tra Israele e la Russia perché non intervenga in Siria, ci sono dei patti più o meno segreti tra Israele e la Russia perché non dia la Russia troppo appoggio all'Iran in caso di guerra, e lo stiamo vedendo, ci sono dei momenti in cui tutto viene riorganizzato a vantaggio apparente in questo momento di Stati Uniti che armano Israele e che interverranno forse, e di Israele. Ma poi le borghesie trovano sempre modo di accordarsi. E qual è l'accordo? L'accordo si basa su due punti. Primo, capitali arabi, rendita petrolifera trasformata in investimento nelle industrie tecnologiche israeliane e americane e nelle industrie di armamento, patto di Abramo. Non so se riesco a spiegarmi bene. Secondo, possibilità di sfruttare un'enorme massa di operai che costano zero. E nel caso del proletariato iraniano, come del proletariato turco, poi non si tratta di gente che non sa lavorare, perché Turchia, che è un'altra potenza, una vera potenza, e Iran hanno fatto uno sviluppo sociale, hanno una classe operaia scolarizzata ormai, hanno, basta vedere l'Iran che è riuscita a sviluppare un'industria missilistica non indifferente. Quindi da questo punto di vista è proprio la massa di operai che questi capitali ricercano. Questa è la riorganizzazione loro, ma il tutto avviene non più su scala regionale ma su scala mondiale. È lì casca l'asino, perché su scala mondiale entrano delle potenze e neanche noi che siamo più bravi dell'ISPI possiamo dire come andrà a finire. Vieni. Volevo sapere, secondo voi, che tipo di relazione politica c'è tra, ad esempio, il partito del Punjab, dei curdi, del movimento curdo, a cui fa riferimento Jinjan Jadi, che però fa riferimento a un paradigma che è quello lanciato da Ocalan con i movimenti sindacali marxisti, leninisti. Allora, da quello che conosco non c'è rapporto. E questo è molto triste. Penso che sono mondi differenti. Neanche adesso c'è una possibile relazione. Se la costruiscono, non so, gli iraniani sono, a differenza di noi italiani che siamo sedentari, quando sono esuli girano per tutto il mondo a prendere contatti e valutano e fanno, te lo dico per esperienza passata. Al momento io non ho trovato niente che esplicitasse interesse, forme di contatto per questa espressione. Tra l'altro, quando in passato c'era la lotta di indipendentisti in Kurdistan iraniano, il PKK non la vedeva tanto bene per ragioni politiche di rapporto, perché purtroppo tra i curdi dei quattro paesi dove esistono hanno sempre giocato di rimpiattino con i vari poteri, però era un altro mondo. Direi che era un altro mondo, sì. Quindi da qua forse bisogna ragionare in un altro modo. E proprio sul discorso, perché per esempio se Ocalan e il movimento curdo lancia il discorso contro la guerra e il cessate il fuoco, si muove nella direzione, no, in cui tu proponevi, contro questa intenzione della guerra mondiale. Lo speriamo questo, perché l'ultimo almeno accordo, questa è la sua dichiarazione. Sì, l'ultimo accordo che però hanno fatto in Siria non preannuncia bene, probabilmente ci sono costretti, ma vedremo l'evoluzione. Non posso parlare per altri. No, certo. Vedo che i movimenti di sinistra non sono mai d'accordo. Tragica constatazione anche qua. Buonasera a tutti. Ho seguito in passato conferenze o studiosi storici, insomma, e vi assicuro, e questo è la prova provata, che non c'è un periodo della storia dell'uomo raccontato se non c'è una guerra. C'è un cazzo da fare, così. Oggi vengo qua, ascolto Francesco, che è un grande studioso, Isaac, che è un grande politico, Marco, sono dei grandi compagni che studiano, e conosco tante cose dell'Iran, che sì, in qualche modo li conoscevo, ma nel dettaglio, quanti lavoratori, quanti scioperi. Beh, insomma, quando scoppia una guerra, il paese interessato viene messo sotto la lente di ingrandimento. È interessante. L'ho notato, era così una mia impressione. È evidente che la questione che è stata affrontata dai compagni che mi hanno preceduto non è una questione che si può risolvere con due parole o con un'analisi, insomma, è una questione che riveste un po' tutte le problematiche che oggi il mondo sta attraversando. Io mi veniva in mente, ma lo dico ma in modo molto colorito, gli ebrei, la questione degli ebrei. Io ho letto Hannah Arendt, dice, ma che c'entra? Beh, insomma, i due secoli passati, veramente la finanza ebraica determinava le guerre in Europa. I Rothschild, sì. Adesso io non voglio associare questa mia idea, questo mio studio a quello che succede in Medio Oriente. E siccome questa Arendt, che è molto brava, ha detto che quando un popolo è pieno di bugie, alla fine non crede più a niente, e se non crede più a niente è difficile che si organizzi in qualche modo. È un sistema, voglio mettere l'accento su questo, è un atteggiamento, è una strategia che il potere oggi attua in tutto il mondo, un sacco di bugie, in modo che il popolo che deve ascoltare non sa mai da che parte stare. Questo di riflesso, penso, nel nostro piccolo, fare chiarezza, dire le cose come stanno. E allora questa questione qua del Medio Oriente, che rappresenta appunto, come dicevo prima, la chiave di volta, anche dell'Ucraina si parla poco perché si connette indubbiamente, è legata proprio a questo fatto. Ma sarà perché gli ebrei sono cattivi che fanno tutte queste guerre? Uno può tirare fuori questa storia. I Rothschild finanziavano tutte le guerre nel 1900 e nel 1800. Erano loro che finanziavano. Se non voleva fare una guerra uno Stato, anche l'Inghilterra, anche il Belgio, doveva chiedere i soldi agli ebrei. Ora io non voglio, magari tutti lo sappiamo, perché gli ebrei avevano questa capacità di mantenere, di speculare sulla finanza, ed erano stati, hanno mantenuto questa finanza per 4-5 secoli. Non mi interessa, non è quello, era una specie di dare un atto colorito a questo mio ragionamento. Il problema invece che si presenta oggi in quell'area, nonostante la grande potenza di Israele, che dicono 80-90 bombe atomiche, insomma ce le hanno le atomiche, hanno missili, hanno sommergibili nucleari, addirittura regalati dalla Germania, per connetterci al discorso della Schwab, no? Praticamente gli ebrei sono gli israeliani. Io voglio togliere il concetto degli ebrei, l'ho detto così per colorire, ma io non sono assolutamente antisemita, la faccenda di quello che è successo nei campi di sterminio mi ha lasciato sempre, ancora oggi, molto provato. Perciò voglio escludere qualsiasi eventualità qualcuno pensi che io sia un briciolo di antisemitismo. No, però nasce questa grande rabbia, chiamiamola così, una rabbia proletaria, di fronte a uno Stato come questo, lo Stato di Israele, che oggi in quest'area sta sterminando la gente. Cioè uccidere i bambini, uccidere i gatti, uccidono anche i gatti, lo sai, i cani, ammazzano tutto. Non gliene frega niente. Hanno fatto di Gaza un nezzaio, come si vede che... E io sono molto d'accordo con quello che diceva il compagno Isaac Sullom, che insomma questa non è una faccenda che nasce dal caso, è stata indubbiamente preparata, tutti i vari leader militari che sono stati fatti fuori. Uno dice, ma questi qua arrivano e uccidono il capo proprio lì dentro, ma non fanno niente. Insomma, è questo, come possiamo, questa altalena di confronti che ci sono tra due stati che nell'area vogliono avere il predominio, uno è l'Iran, l'altro è Israele. E sappiamo tutti che la questione palestinese nasce proprio da questo scontro Israele-Iran. Ma detto così, evidentemente è monco come ragionamento. Noi dobbiamo affrontare le problematiche che abbiamo di fronte non solo per essere dei buoni accademici noi, così ci prepariamo, siamo soddisfatti di quello che facciamo, ma perché quando parliamo a chi dovremmo parlare, poi qualche volta lo facciamo, dobbiamo dire le cose giuste, dobbiamo dire la verità. Allora, prima cosa, i compagni l'hanno già affrontata, in parte, insomma, approfondita, c'è un problema di fondo. Il sistema del capitale a livello mondiale comincia a fare i conti con le sue problematiche, che sono quelle della valorizzazione dei profitti, che non avvengono più come prima. Io mi ricordo quando parlavamo della questione palestinese che i palestinesi andavano in Israele a lavorare attraverso i fori, lì che mettevano attraverso i checkpoint, poi non servivano più, ma costavano poco, perché c'erano i cingalesi e i pakistani che costavano meno, fuori dalle balle. Io ho parlato, poi al compagno si ricorda, ma tiro sempre fuori questa cosa perché secondo me l'hanno detto anche gli altri compagni, la guerra non è solo un problema di conquista, di geopolitica, ma anche un problema sociale. Va eliminata la forza lavoro in eccesso, perché la forza lavoro in eccesso mangia, magari si organizza, allora va eliminata fisicamente, ma non c'è problema. Un morto non rompe i coglioni più a nessuno, non c'è niente da fare, è così. Ora, di fronte a questo disastro, noi ci dobbiamo rapportare, perché è evidente che se io ragiono e mi dico che fare, dice no, non parliamo di che fare, no, che fare, cosa facciamo adesso? Dovremmo armare un esercito di 3, 4, 5 milioni di persone, andare là e fare piazza politica, arrestarli tutti, attenzione, io non sono per ammazzarli, rieducarli, è fantasia pura, è impossibile. È evidente insomma che noi dobbiamo, di fronte alla classe operaia, quella poca classe operaia che riusciamo a influenzare malamente, dire le cose giuste. Bene, oggi questo elemento fondamentale, io mi ricordo l'Iran che voleva vendere il petrolio in euro, è già stata la prima, è evidente che è un fattore molto semplice, gli Stati Uniti d'America che erano, no, i controllori del mondo, i gendarmi del mondo avevano in mano tutto e hanno ancora in mano tutto, hanno cominciato a far pressione su questo. La guerra Iraq, Iran nasce da questo, sul questo, è inutile che non la voglio fare lunga, li sappiamo tutte queste cose. Beh, in effetti, noi di fronte a questo problema dobbiamo chiarire le cose, l'ho detto ancora un'altra volta, insomma gli israeliani, l'ha detto il compagno Sullom prima, la lunga mano degli americani che in quell'area non possono lasciare che le cose vadano in un certo modo. Il controllo di quell'area è il controllo del petrolio, è il controllo del gas, è il controllo praticamente dei profitti mondiali, perché da lì lo stretto di Hormuz, sai, se chiudono lo stretto di Hormuz il petrolio raddoppierà, chissà se ce la fanno a chiuderlo, però ma chiudetelo, ma fa un culo pure il petrolio, andiamo a piedi, voglio dire. Ma è proprio cioè un equilibrio che si mantiene veramente. Io quando li sento queste cose, ma dico, ma è possibile che sono così precisi? Con il bilancino, tutto calcolato, e gli utili attacchiamo a questo. Poi effettivamente io non è che voglio fare il filo al governo iraniano. Masavini, io non festeggiavo più il mio compleanno da tempo, perché ogni anno che festeggiavo era un anno più vecchio, cazzo. Poi da quando è morta Masavini l'ho cominciato a festeggiare, perché è morta il 13 settembre, il giorno del mio compleanno. Allora lo festeggio sempre. È a memoria di questa compagna, questa donna uccisa dalla polizia morale. Bene, penso questi sono gli elementi centrali. Noi dobbiamo precisare il fatto che a livello mondiale si sta sconvolgendo il sistema del capitale, si sta sconvolgendo. Uno sconvolgimento che coinvolgerà tutti, anche quelli che stanno alla finestra, anche quelli che oggi pensano al ticket e mensa, non gliene frega più niente, anche i lavoratori che magari si sentono coinvolti quando aumenta la benzina, ma non sanno che cosa sta succedendo, non gliene frega. Questo è un nostro compito, purtroppo non facile evidentemente. Perciò questo è l'elemento centrale. Io vengo in queste riunioni, verrei tutti i giorni, però insomma quanto posso venire, perché ci chiariamo, ascolto delle relazioni di un livello più accettabile di quello che sento in certe organizzazioni sindacali, lasciamo perdere, mi fa piacere, perché insomma la cultura è, come si dice, più sai, più sei. Sapere di più vuol dire anche, come diceva Carlo Marx, insegnare anche agli altri quello che sai, se è possibile. E questo è l'elemento centrale. L'altro elemento, la compagna l'ha detto, ma questi gruppi non si... Io mi ricordo con Francesco parlavamo con i Peshmerga, come si chiamavano quei compagni curdi? Peshmerga è il combattente. È combattente, vabbè, lui si arrabbia subito perché non vuole parlare del passato, però pensavamo, insomma, un minimo col compagno ci siamo parlati l'altro giorno, possibile che in queste aree... Non c'è niente, qualcosa c'è a cercare, ma non perché pensiamo di aiutare, ma no, magari 100 euro, 1000 euro, come abbiamo fatto con i palestinesi, glieli mandiamo pure, ma capire, perché questo forse è il nostro compito, individuare all'interno di questo processo, perché la distruzione ci sarà, lo sconvolgimento ci sarà, all'interno di questo processo di distruzione, la classe operaia come classe antagonista a questo sistema ha le capacità, ci sono le condizioni che in qualche posto si organizzi. La rivoluzione contro lo Shah Reza Pahlavi non è stata fatta solo dagli islamici, l'hai detto tu, ma guarda un po', l'ho letto anch'io, c'è stato anche il Partito Comunista che combatteva contro la monarchia di Reza Pahlavi, poi gli sciiti hanno fatto quello che hanno fatto, insomma, e hanno preso il potere, hanno portato, certo, lo sviluppo e tutto, però ho visto quella donna che era in televisione, tutta guardata, sembrava una bambola, una monaca, insomma, ecco, questo è l'altro elemento centrale. Perciò sapere, conoscere, se possibile tendere una mano a compagni iraniani, palestinesi, curdi, siriani, che all'interno del loro progetto mentale c'è l'idea di confliggere come il sistema del capitale, senza appoggiare Khamenei o senza appoggiare Hamas, per dire, per farla in termini molto semplici. È un problema, secondo me, grave, serio, ma come si dice, anche la strada per il comunismo è lunga. Però noi ci siamo incamminati su questa strada e la porteremo avanti fino a che avremo respiro. Poi, quando non ci sarà più niente da fare, quelli che vengono dopo vedranno se si arrangiano loro. Insomma, questo era ciò che volevo dire, in un contesto chiaramente di non nessuna critica, nessuna... No, ce ne sono qua critiche, evidente. No, chiedo, ma allora diteci voi cosa dobbiamo fare. Magari lo sapessimo, è difficile. Possiamo formarci e cercare di trasmettere a quelli che influenziamo, perché io faccio attività sindacale, sono dello Slay Copas, vado nelle aziende a parlare, vi assicuro che non è facile parlare di queste cose, non è facile. Ecco, trovare un'energia, trovare delle capacità per poter megafonare quanto più possibile questa verità. Il sistema del capitale esploderà prima o poi, la classe operaia si deve organizzare. In Iraq c'è questo partito, in Giappone c'è quest'altro partito, questo lo fanno gli studiosi. Io non sono uno studioso, un pochino sì, ogni tanto, perciò quando vengo qua sono anche, come dire, avvantaggiato. Massimino, guarda che un documento come quello che ha letto... Ottimo, certo, è un ottimo documento. Certo. Ecco. Poi ci sono diversi siti di organizzazione. Parla al microfono. Ah, scusa, già. Allora, dicevo, il documento letto da Francesco è un documento classista, è scritto nel fuoco della guerra, quindi è già un punto veramente notevole. Ci sono poi, a mia conoscenza, dei gruppi politici iraniani che hanno dei siti. Io sono stato in contatto con un gruppo che si chiama Manjanig, non so cosa voglia dire. Lancia la fionda. No, lancia... È il lanciatore della fromboliere, fionda. Fromboliere. E hanno un sito che si chiama in inglese Slingers Collective. Sì. Slingers Collective. Ci sono degli ottimi documenti scritti negli anni sulla situazione politica iraniana e sempre da una base politica marxista e classista. Quindi io da un loro documento ho imparato molto e quindi ci sono delle forze politiche che in parte in esilio, in parte con contatti locali. Quindi bisogna, se vuoi te li dico poi. Ci è qualcuno in collegamento? Ah, vieni, vieni. Scusate. Parlando di gruppi di vari gruppi di sinistra in Iran, ci sono e c'è in aumento anche sia tra gli universitari sia tra i lavoratori. Ma il discorso è che sempre essendo tutti illegale, cioè in Iran tutto ciò che si deve fare deve essere avere il suffisso islamico, cioè associazione lavoratori islamici, e poi deve essere sotto controllo del governo. Quando c'è islamico vuol dire che sotto controllo del governo, devono dare report, tutto deve essere registrato sotto controllo di loro. Per quello non si sente, e poi non sono organizzati come per esempio i sindacati che sono qua, come i partiti che sono qua, quindi ci sono tanti piccoli gruppi, diciamo, ma tutti illegali, tutti nascosti. Anche io per esempio, che seguo molto, cioè, ogni giorno vedo che ci sono nuovi gruppi di studenti che hanno fatto una cosa, un movimento nuovo dentro la loro università, che si vede che dopo 2 anni arrestano 3 di loro, rimangono 5 altri, fanno un altro gruppo. Cioè, questi movimenti ci sono, ma non ci sono partiti conosciuti o grandi organizzazioni. E questo è un problema, ovviamente. Questa è la stessa cosa che è successo nel periodo dello Shah, perché anche allora esistevano dei partiti prima del coup del Mossad, contro il Mossadegh. Lo Shah ha fatto una repressione eccessiva per chiudere tutti i partiti, ha fatto un monopartito, ha detto che non vogliamo altri partiti, solo il partito dello Shah. Ma quindi un po' sono rimasti dei vecchi partiti sono rimasti fino alla rivoluzione, ma sono sempre stati deboliti e di meno. E anche lo SAVAK, con l'aiuto di CIA, diciamo sistema di sicurezza dello Shah, loro hanno ammazzato i capi per esempio di vari gruppi di sinistra che erano molto attivi in rivoluzione, hanno contribuito molto per rovesciare il regime dello Shah. Ma è proprio stato così che loro avevano sempre lasciato libero gli Ayatollah, questo seguito da CIA, perché loro volevano che loro rimangano come opposizione. Gli Ayatollah che diventano il più forte gruppo di opposizione. Quindi hanno represso tutti gli altri gruppi, ammazzato tutti gli altri gruppi. Alla fine la rivoluzione è stata fatta, gli Ayatollah avevano già una rete molto forte in tutto il paese, invece i gruppi di sinistra no, tutti erano senza i capi, persone più importanti già ammazzati dal SAVAK. Quindi la stessa cosa sta succedendo adesso, cioè e molta resistenza da parte di vari gruppi gruppi etnici, gruppi delle donne, come abbiamo visto di Donna, Vita e Libertà, che non era una manifestazione organizzata, non era un movimento organizzato, una cosa nata da sé. Ma purtroppo succede così, che anche adesso lo stesso, cioè l'unica persona che va sostenuta all'Occidente è figlio dello Shah, quello di estrema destra, pro-Israele, figlio di ex dittatore che vuole prendere il potere. Tutti gli altri sono sotto repressione, anche se davvero loro che stanno facendo la resistenza, cioè vari gruppi dentro. Scusate che è diventato lungo. Un'altra cosa penso che sia nelle difficoltà che ci sono in Iran, dobbiamo tenere presente che il movimento che c'è stato, Donna Vita Libertà, è stato molto diverso da quello in passato, sicuramente con una partecipazione di massa estremamente elevata, ma è stato fatto soprattutto da giovanissime e giovanissimi, privi di rapporti con queste opposizioni, con queste cose. Quello che si capisce dall'estero o dai contatti con gli iraniani è che nelle situazioni in cui c'è qualche tipo di organizzazione, ci sono rapporti, ci sono piccole cose che si muovono, ci possono essere anche scioperi grossi come quello dei camionisti, cose che vengono nella realtà, nello sviluppo. La difficoltà è quella di tutta la società che, vi dico, è amplissima questa spinta, è stata repressa. Io penso che i ricordi personali non so quanto possono valere. Nel 2014 sono stato in Iran. Questa cosa, se parlavi con le donne, e io ci devo parlare per interposta persona, perché in Iran una donna non può parlare con un uomo sconosciuto o dargli la mano, quindi passava tramite mia moglie questo discorso qua, il desiderio, la necessità del cambiamento, la far fine del regime era una cosa che te lo diceva l'80% delle persone con cui andavi a parlare. Cioè, quindi se tu lo percepisci da turista che sei molto, ti deve dare l'idea di quello che sta bruciando dentro in quell'atmosfera, in quelle cose, e si è visto, perché si è visto, insomma, se uno aveva la pazienza di andarsi a vedere su Telegram, su tutti i vari social, erano in iraniano, ma insomma li vedi, o anche adesso vedi, io non capisco quello che dicono, ma vedi scioperi in città che effettivamente il bazar è chiuso, e sono le guardie della rivoluzione che passano, non sai quanto duri, quanta gente riguardi, però hai l'idea di una vivezza che noi qui in Italia abbiamo perso da un pezzo nelle lotte sociali, ecco. Un'ultima cosa che mi è venuta in mente, anche perché noi abbiamo fatto anche questa riunione perché pensiamo che sia uno dei pezzi delle cose che stanno portando alla guerra più generale. Per dire, ne avevamo anche un'altra in preparazione, poi non siamo riusciti a organizzarla in tempo. Ne riparleremo a settembre, che è una delle tante guerre sconosciute, il Sudan. Il Sudan, ci sono 150.000 morti dalla guerra. E quindi dà l'idea di un mondo che il capitalismo sta precipitando e che, partendo dalle valutazioni di queste guerre concrete, dobbiamo riuscire a dare questa indicazione che in guerra non ci vogliamo andare, che i giovani non ci vanno, che devono, va smesso con la guerra e vanno bloccati. Altrimenti, con l'arsenale che c'è in blocco, con la delinquenzialità che hanno questi governanti, può succedere di tutto. Per dire, uno dei punti chiave di questo che sta succedendo è l'Iraq, che è strettamente connesso. L'esercito italiano, oggi ci hanno detto in TV, è ridislocato in Iraq. Il numero è sempre quello, ma non si sa cosa vuol dire questa cosa. E noi siamo il capo missione, come Italia, in una situazione che è fondamentale per il controllo dell'Iraq, che è l'altra ventre molle della situazione. E tu controlli l'Iran e colpisci l'Iran, se l'Iraq è tranquillo, perché tutto il sud dell'Iraq è sciita e poi la gente non è che accetta tranquillamente queste guerre. Sì, è da seguire questo dislocamento che è stato comunicato, ma non si è capito dove sono stati dislocati. Vabbè, vedrai che quei prossimi giorni qualche cosa salta fuori. Allora, si dicono che ci sono una serie di basi operative. In realtà non si sa niente di preciso. Le basi operative. Gli americani sono presenti ad Aviano come sono presenti in Germania. Sono sempre state usate nel teatro medio orientale vicino. L'altra base fondamentale che si sa che viene usata è Sigonella per l'Ucraina. Per queste cose. Potranno usarle, sì. Crosetto dice che è operativa per gli americani, ma gli americani sono lì da sempre. Cioè, quando abitavo da quelle parti tu andavi a prendere gli stereo dagli americani perché costavano meno, importavano i Technics con senza l'IVA, ecco, queste cose qua. Ma lì ci sono. Il problema sarà se parteciperemo. Crosetto ha detto di no, ha detto che bisogna uscire dalla NATO, però sta anche sostenendo un riarmo feroce dell'Italia e dell'Europa. Cioè, e anche quelli che dicono di no, tipo Salvini, dice armarsi per l'Europa no, ma se è per difendere i confini italiani sì. Quindi più armi in Italia, più soldati e più cosa. In guerra ci vogliono portare i giovani. Il capitalismo ha l'epilogo nella guerra, che è un fatto politico, non economico, però stiamo arrivando a questo. Poi volevo ricordare che l'Italia non è solo in Kuwait, è in Iraq con la missione militare, ma è soprattutto sul Libano, al confine con Israele, la FINUL, l'UNIFIL, insomma. E attualmente il comando dell'UNIFIL è ritornato in mano italiana e il generale si chiama Diodato Abagnaro, per cui siamo nelle mani di Dio. Ma è molto, molto, molto tesa la situazione, perché l'UNIFIL sta garantendo la pulizia fatta da Israele e dall'esercito libanese dei siti e delle piazze forti tenute un tempo da Hezbollah al confine con Israele. Quindi il ruolo dell'Italia in questo momento sui terreni di guerra in cui Israele agisce è veramente importante, non eccezionale, ma importante sì. Secondo punto, l'Italia sta dando anche armi ad Israele e ha rinnovato solo 15 giorni fa il trattato di cooperazione scientifica e militare. Quindi siamo perfettamente schierati in questo momento con Israele, il che non significa che non faremo anche una politica di penetrazione in Iran, perché l'Italia con l'Iran ha sempre avuto ottimi rapporti e l'ENI è sempre stata presente in quel paese. Quindi ci vedremo coinvolti. Piano Mattei? No, il Piano Mattei è per l'Africa, ne parleremo. Ci abbiamo anche quella. Sì. No, voglio dire, adesso in concomitanza, è una notiziola, ma poi sempre che riguarda il Libano, che credo sia stata fatta in due lingue agli Hezbollah, la raccomandazione che in questo momento non debbono adoperarsi in nessun modo contro Israele. In due lingue, secondo me, erano libanese e italiano. No, se ci sono altri interventi o cose, se no possiamo anche, visto che non piove, possiamo. Va bene, grazie a tutti.